Italians. Italien. Italianas. Italienische. Italianisch. Italvi. Italiago. Con la valigia. Buongiorno. Buon pomeriggio. Sono venuta per dire solo buonanotte. Buongiorno anche a voi, comunque, ascoltatori e ascoltatrici di Italiani con la valigia. Oggi avremo un ospite speciale da Bruxelles, dalle alte sfere della politica europea, ci parlerà di tante cose interessanti, però la nostra Laura oggi è passata così, con un colpo di vento, perché sì, ragazzi, sapete che lei sta traslocando, lo sapete ormai da tempo. Come prosegue? Prosegue, diciamo che siamo sulla retta via. Il riscaldamento a posto? No. Tutto a posto. Tutto a posto. In casa non piove, è vero? Tutto a posto. Tutto bene, come non c'è più muffa, non c'è... Bidet, cioè, tutto a posto, detto, l'abbiamo posto. Detto. È così a posto che vi devo lasciare. Insomma, Laura è venuta così perché lei deve venire, deve partecipare, però poi insomma, il tempo è tiranno. Dove esserci, mi sento esclusa. Sì, non si fida, non si fida, deve controllare, cosa diciamo. Però Marilena la sentiremo io e te, cara Maddalena. È anche perché, meglio, perché chissà sì. Che domande potrebbe fare. No, ma parliamo di questa città, parliamo di Bruxelles, che so che si mangia un cioccolato fantastico. Che si parla francese? Sì, che si parla francese, ma non solo. Eh sì, si parla anche fiammingo. Fiammingo, ragazzi, che è come l'Afrikaans, volevo dire. Sì? Poi si parla francese, un momento, ma è francese con un accento molto particolare. Sì, per fortuna non avete idea di che cosa sia il francese del Quebec, perché... Sì, sì, che ci tocchiamo. Non ho idea cosa sia il francese. Io di aneddoti, ma... A Montreal, altro che... Io ho conosciuto una ragazza di... Adesso parte la musichetta, l'aneddoto di Laura, vai. Sì, parte Pippotto. Guardi, l'aneddoto di cosa concerne? Della canadese che si sente francese. Ha detto, oh, mi manca il mio formaggio. Ma de che? Ma de che? Che viviamo neanche a Montreal. Comunque io conosco una francese che vende il formaggio a Montreal, quindi c'è. Guardavo male la gente, pensavo avessero tutti dei problemi, cioè, perché non capivo assolutamente nulla. Ma non si capivano neanche tra di loro, secondo me. Se siamo a Bruxelles, non siamo neanche un po' usciti di no, con la testa siamo andati in giro per il mondo, penso che l'abbiate capito. Con il corpo invece siamo ancora qui. Comunque, oggi parleremo con Marilena. Sì, Marilena è una persona da scoprire, perché secondo me ci dirà tante cose particolari, non solo lavoro, vedrete. Scopriremo tante cose diverse, ci farà capire un po' com'è questa Bruxelles. Eh sì, ma io so, a proposito di Bruxelles, so una cosa molto importante, cioè so che tu lì sei stata svezzata dal papà. Sì. No, raccontala sta cosa. Ma diciamo che ho fatto questo viaggetto con mio padre a Bruxelles, ero ancora una bambina, diciamo, e in un momento abbiamo detto ci fermiamo, ci mangiamo le moules, le frites, accompagnate ovviamente da una birra. Io non ho mai avuto una birra in vita mia, mi prendono una doppio malto, una media, quindi mezzo litro, bevuta buonissima. Mi piaceva, solo che alla fine mi sono resa conto che mio padre erano diventati tre, la porta del locale non la trovavo, dovevo fare un gentilmente il pipì in mare, impossibile alzarmi da tavola, quindi mi sono presa la prima sbronza. La prima sbronza a Bruxelles. Infatti noi parleremo tanto di birra perché è la nostra passione, ma non solo. Salutiamo Laura che va a fare il suo trasloco. Ciao ragazze, un bacione. Au revoir. Senti com'è eterea, vedi? Ormai ha preso gli usi e i costumi locali. Non c'è niente da fare, così camaleontica. Esatto. Buon trasloco Laura, alla prossima. E noi adesso parliamo con Marilena. Sì. Ciao Marilena. Buongiorno. Buongiorno. Bentrovata a Italiane con la valigia. Allora, prima domanda semplice: chi sei, da dove vieni e come mai hai scelto di andare a abitare a Bruxelles? Io mi chiamo Marilena Di Stasi, sono originaria della provincia di Salerno, mi sono laureata in scienze politiche nel marzo del 2003 e ad aprile ero già qui. Vabbè, subito, insomma, non ci hai pensato due volte. Il motivo che mi spinse a tentare prima la strada belga era ovviamente la possibilità di poter lavorare per le istituzioni europee. Benissimo, e quindi di che cosa ti occupi? Ora lavoro in Commissione Europea. Siamo entrati proprio dentro le istituzioni europee, là dove si decide il nostro destino. Hai mica pizza e fichi, ragazzi, non siamo mica qui a pettinare i bambole, come dicono a Milano. Comunque. Diciamo che hai centrato l'obiettivo, sei arrivata dritta. Sì, col tempo, è stato un percorso, insomma, non sono arrivata immediatamente a lavorare per la commissione, ma ho maturato esperienze sia nel settore pubblico qui in Belgio, già che ho lavorato per più di 3 anni al Ministero degli Esteri. Poi finalmente sono approdata in Commissione Europea 5 anni fa, dove al momento mi occupo di consumatori, in particolare mi occupo di energia e carburanti. E poi c'è una seconda parte della mia vita che credo possa interessare di più gli spettatori, perché è un po' più colorata. No, no, racconta. Dai, vogliamo anche gli aneddoti, esatto, vogliamo la vita vera, vissuta, da raccontare ai nostri ascoltatori. Come ribadiamo sempre in trasmissione, non parliamo mai di vita personale, però... No, come tu hai fatto con la puntata di Parigi, direi che quello è proprio un esempio lampante, no, a parte ciò. Conduco un programma radiofonico da 8 anni. Ah, però, in francese? In italiano, di tanto in tanto anche in francese, per una radio multiculturale che si chiama Radio Alma. Parliamo infatti varie lingue, quindi ci sono trasmissioni in francese, in spagnolo, in portoghese, in italiano e in greco. Tanto è vero che si chiama Alma proprio perché la parola Alma è un po' il fil rouge di tutti questi paesi. Il mio programma si chiama Brussellando, ci occupiamo di agenda culturale, quindi diffondiamo quelli che sono gli eventi chiave. Poi cerchiamo di intervistare, nel momento in cui sono disponibili, gli attori, gli artisti italiani di passaggio a Bruxelles. Quindi sei un punto di riferimento, chi viene a Bruxelles ti deve contattare. Modestamente sì. Oh, vedi, lo dico. Oh, bene, bene. Ce ne sono tanti di artisti italiani che fanno tappa a Bruxelles. Ma allora, devo dire che fino ai primi 2 anni un po' meno, quindi nel periodo che va dal 2007 al 2009, anche il 2010, molto molto pochi. Invece negli ultimi 5 anni ho avuto la possibilità di intervistare per esempio Giancarlo Giannini, Claudio Baglioni, Battiato, ce ne sono tanti, non ricordo più, ma comunque avrò fatto credo più di 500 interviste per il programma. Tanti artisti che decidono di passare in Belgio, forse anche perché c'è una comunità italiana molto importante, così? È una riflessione che facevo proprio ieri al supermercato. Quello che è accaduto, probabilmente anche per la crisi economica che purtroppo ci ha colpito già da qualche anno, ora c'è stato un po' un cambiamento, e quindi questo ha fatto sì che la stessa offerta culturale mutasse, perché il pubblico è cambiato. Bruxelles è una di quelle città in cui viene riconosciuto lo status di artista. Quindi a qualcuno che volesse provare, diciamo non ha ancora uno stipendio, un lavoro fisso, un artista che vuole provare a riuscire, Bruxelles potrebbe essere una città adatta secondo te? Ci sono dei requisiti da soddisfare, però poi insomma è una professione che viene riconosciuta al 100%, anche con un inquadramento molto preciso. Quindi negli anni sono arrivati attori di teatro, per esempio, ballerini, musicisti, si riesce ancora a vivere di arte. Ovviamente poi per quello che può essere un certo tipo di qualità di vita, ciascuno inserisce quello che vuole, ma tutto sommato chi ha un piccolo sogno sicuramente a Bruxelles può trovare uno spazio. A proposito di vita e di costi, perché è una delle città insomma tra le più care in Europa, come si riescono, scusami, viene in francese, scusa tanto. Si arriva a fine mese a Bruxelles, magari facendo l'artista, lavorando in quest'ambito con uno stipendio non proprio altissimo? Penso sia la 15ª più cara in Europa, se ricordo bene un articolo che avessi letto. La differenza che io ho riscontrato in questa città è che gli affitti non sono ancora così elevati come lo sono in altre città. Sì, questo lo so perché io ho parecchi amici da Parigi, si sono spostati proprio a Bruxelles. Diciamo lamentandosi sempre del clima, però mi hanno sempre detto che con lo stesso affitto di uno studio a Parigi, a Bruxelles puoi aspirare a una vera casa con stanze, bagno, cucina, è vero? Sì, che non è poco. Assolutamente sì, diciamo che qui gli affitti sono ancora contenuti, nel senso che... Umani. Sono ancora a dimensione umana, sì, tra l'altro hai detto proprio bene, secondo me Bruxelles permette ancora un tenore di vita poco paragonabile con altre capitali. L'immagine che ci stai dando di Bruxelles è completamente diversa da quella che immaginavamo. Ci immaginavamo una città, come hai detto tu, fondata appunto sulla burocrazia, piuttosto seria, insomma, la sede della Commissione Europea. Invece è una città molto attiva, una città viva, una città che si sta svecchiando in un certo senso. L'unica cosa che corrisponde allo stereotipo è il tempo. Mi dispiace, ti devo contraddire. Ah, pure lì fa caldo, è vero. Cioè, adesso mi dici che fa più caldo che in Costa Azzurra, io vado a vivere là, scusate. Allora, questo però è un fenomeno che si è verificato nell'ultimo anno. Abbiamo molte più giornate di sole di quelle che avevamo prima. Abbiamo la pioggia, no? Ma questo lo sappiamo. Se mancasse mi offenderei. Però oggi, per esempio, c'è un cielo, posso dirlo che c'è un bellissimo cielo azzurro? E poi, cara Deborah, a Bruxelles si beve un'ottima birra. È lì che volevo andare. Esatto. Perché tu ci hai parlato giustamente di offerta culturale, musicale, e compagnia, però un bel giro nelle brasserie ce lo consigli? Ci dai qualche indirizzo così? Ce ne sono tante, quindi c'è un locale, penso si chiami proprio Petit Suisse, dove ci sono tre piccole lavagne dove vengono praticamente riportate più di 1000 birre. In privato poi segno l'indirizzo. È un posto veramente eccezionale, perché per quanti amano la birra, ma per quanti invece non conoscessero questa bevanda, possiamo dirlo, no? Chi non conoscesse il nettare degli dèi, un buon inizio. Ci sono ancora delle brasserie legate per esempio a dei monasteri. Per esempio la mia birra preferita è la Chimay. E la fanno in monastero. È bravissima, prodotta presso la brasserie dell'abbazia di Notre Dame de Scourmont. Poi ce n'è un'altra che è quella della Chouffe. Oh, la Chouffe, già do. Ne ho bevuta una giusta l'altra sera, giustamente. Sì. Il mio sogno è di comprare la spina da casa. Molto piacere. Ah, guarda che sarebbe stiamo fantastico. Arrivando, Sì, sì, ma noi veniamo veramente, mica in modo virtuale. Voglio allora segnalare un'altra birra che io ho scoperto di recente, che è la Binchoise. Bevora, mi stai stupendo, la conosco, aromatizzata al miele. Esatto. Ecco, vedi. Mamma mia. Aiuto. Mi fa piacere ricordare Bich, perché ci sarà proprio il carnevale, quindi insomma sarà una delle città sicuramente più popolate del Belgio. La mia brasserie preferita è quella della Morsibi, che è proprio al centro della città, a pochi passi della Grand Place. Tu non ci crederai, però ancora prima di chiamarti avevamo già selezionato la foto della brasserie. E proprio quella della Morsibi, quindi proprio c'è una telepatia senza volerlo incredibile. L'ultima domanda prima di lasciarti: che cosa ti manca di più dell'Italia? La mia famiglia. E basta, no? Neanche la cucina, niente. No, non mi manca manco quello, no. Vorrei avere mia madre qui, con me. La mamma è sempre la mamma. E beh, insostituibile, assolutamente non ragione. Una delle città che se un giorno dovessi mai partire mi porterò nel cuore. E l'ho battezzata in maniera molto simpatica e non me ne voglia nessuno, ma per me Bruxelles è l'ultima capitale latina, perché andando poi a nord di Bruxelles andiamo già al nord Europa. È tanto, Ma mi sembra incredibile parlare di città latina. Esatto. Lassù è giovane soprattutto e accessibile, perché a quanto abbiamo capito è una città accessibile. Accessibile, sì, poi ovvio che ci sono più mondi, no? Nei mondi ci sono i micromondi, quindi poi è chiaro che c'è il mondo della finanza, c'è il mondo europeo, però poi ci sono altri mondi che chi vuole scoprirli può scoprirli facilmente. Perfetto, Marilena, noi ti ringraziamo, non avremmo mai immaginato voi. Tutte queste cose, grazie. Prenota un tavolo che domani veniamo a berci una biretta. Guarda, prendiamo questo volo. Ho prenotato un tavolo da Leon e domani sera con grande ci piacere. Siamo, ci siamo. Fatto, e poi fatto. Serata la morte subita, poi quella bella brasserie che mi hai detto prima con le 1000 birre, le proveremo tutte, è vero, è vero Maddalena? Tutte. Tutto. E non usciremo di lì finché non avremo assaggiato ciascuna birra. Grazie Marilena. Grazie. Voi. È arrivato il momento di salutarci. È giunta l'ora. Però una settimana passa in fretta. Esatto, una settimana passa in fretta. Non vi diremo dove andremo settimana prossima, se andremo al sole, se andremo... Sole, Deborah, dai. Ancora sotto la pioggia. Va bene, quindi appuntamento a settimana prossima. Grazie per averci ascoltato. Ciao, grazie. Ciao, buonanotte. No, buongiorno. Buon pomeriggio. Buonanotte, posto di laurea. Ciao. Ciao a tutti, ciao.